espressione che indica gli spazi bianchi, gli spazi in un testo, tra i versi di una poesia, cioè gli spazi tra una parola e l'altra, tra lettere e parole, tra gli elementi grammaticali e gli elementi sintattici, spazi intesi come margini, delimitazioni del testo, spazi come interline, cioè spazi tra un verso e l'altro. Il bianco tipografico, la spazialità che si posiziona tra i caratteri stampati, i caratteri stampati che si posizionano su una superficie piana, su una superficie orizzontale. Si pensa che il testo poetico si componga solo delle sue parti verbali e non si considerano mai le sue parti bianche, le sue parti soltanto del contenuto verbale, e meno quelle degli spazi non verbali. Tra le linee e gli spazi di questi testi, dei testi di bianco tipografico, emerge una diversa logica del comporre la poesia, dove convivono presenza e assenza del verbale, pieno e vuoto, detto e non detto, intero e frammentato, con un trattamento dello spazio linguistico che è poesia di ricerca. In caso di fumo, di fiamme, avvicinare un fazzoletto, senza fermarsi, senza creare, proteggere la presenza o meno attardarsi, piegati o di cotone, togliersi le porte calde, per nessun motivo fornire informazioni, per nessun motivo acquistare oggetti, qualora fossero con tacchi alti. Solo scende, re solo oltrepassare, solo getta, re solo camminare, solo chiudersi, solo scende, re solo aprire, solo tentare, solo scendere, solo scendere, solo camminare, solo gettare, solo camminare, solo camminare, solo scendere, solo gettare d'occhio, o sporgerti e oltrepassare, o sporgerti e scendere a oltrepassarla. Trasmissioni dati, modalità costante, fino al campione successivo o parzialmente non è solo un motivo che aggiunge o estende funzionalità politica, disponibilità basata sul sistema operativo trasmesso su un mezzo trasmissivo. Maggiori saranno le quantità, con il proprio ufficio i vantaggi di accettare in un secondo frequenza che indica un file eseguibile, evitano di ricevere messaggi, connessioni in rete, la latenza di compressione non reversibile. Alimentatore a corrente costante, deflessione elettromagnetica, capacità interelettronica, unidirezionale, pulsante, modulazione a terreno costante, emissione termoelettronica, correzione relativistica, di fase a doppia uscita, fluttuante modulatore, a reattanza, a irradiazione longitudinale, trasformatore di alimentazione, commutatore ad accelerazione, array a irradiazione trasversale, bilanciamento della mutua induttanza. Rileggo, ho riletto Autoreverse e quello che ho sentito e ho visto soprattutto non è appunto tanto un'immagine sfocata o indefinita, è piuttosto una fotografia di un movimento, di qualcosa che si sta spostando. E il rumore invece che ho risentito, perché è un testo che ho letto alla sua uscita un po' di tempo fa, è un rumore di sottofondo, è quello che, diciamo, scientificamente viene definito rumore bianco. È un rumore che è la somma di tutti i rumori ambientali, di tutte le frequenze che possiamo in qualche modo rinchiudere in un unico, diciamo appunto, suono. È il suono di autoreverse, è il suono di un rumore che è anche rumore di chi sta scrivendo, probabilmente, di chi sta pensando che parole scegliere, di chi sta registrando una scena che è in movimento, che è quello dell'autoreverse, cioè di un movimento che è fast forward e anche in rewind. Non ha mai un momento di stop, ma è un play continuo, un rec continuo, che tenta di registrare tutti i movimenti che chiaramente devono anche, come dire, incidere su questa registrazione, i rumori ambientali, i disturbi di scene urbane in cui succedono le scene che Autoreverse tenta di descrivere. Lascio solo un'ultima immagine, che è quella di un fotografo giapponese, Hiroshi Sugimoto, che ha fatto questo esperimento, e Luciano, nel lavoro che fa, mi ha fatto venire in mente delle fotografie che Sugimoto fa. In sostanza, Sugimoto va nelle sale cinematografiche, e apre la camera, la lascia accesa, quindi l'otturatore è aperto per tutta la durata del film. Può essere un film che dura 2 ore, 1 ora e 40. L'immagine finale mi ha ricordato da vicinissimo il libro di Luciano Autoreverse, cioè un flusso in cui lo stop non c'è mai ed è un colore rumorosissimo. Oggi i bambini giocavano spensierati al parco del castello. Uscivo la spirale, il tubo a serpentina con gli oblò, il ponte sospeso, il campetto in erba sintetica, le linee di gesso del campo appena tracciate, la torretta merlata, l'esplorazione del boschetto. Di sera hanno raccontato la loro giornata come se io non ci fossi stato. La cena davanti era fredda e ci parlavamo come da un vetro. Di notte ho sognato come segue. Lo scivolo a spirale, senza regolare nitidezza. Il tubo a serpentina con gli oblò. Il ponte sospeso in uno sfondo illimitato. Il campetto in erba sintetica. E la torretta merlata, senza un movimento di foglie precedente. Le linee di gesso del campo appena rifatte. L'esplorazione del boschetto senza un vento sui rami successivo. 2 volte almeno il ponte sospeso. Lo scivolo a spirale. E l'esplorazione del boschetto, le linee bianche del fuoricampo di gesso sullo sfondo, difficili e limitati senza regolare nitidezza, con in più dei fatti di cui la mia presenza non si era accorta durante la giornata al parco del castello. Di fronte al palazzo d'inverno, un uomo è testimone dell'inizio dell'assalto e un altro gli impedisce di seguire le riprese dell'evento e lo spintona fino a diradarsi dalla folla, fino a una piazza che si sta svuotando. Una vera e propria goccia d'acqua che si è scoperto e che si chiama Reed, l'uomo per l'altro che si riconosce e che un po' gli somiglia. Qualche giorno dopo siamo tornati al parco del castello per ripercorrere le tracce e i movimenti delle scene del gioco e del sogno identico, e i punti delle immagini sgranate hanno respinto come un invasore a quello che sembrava, fino alle spinte e al diradarsi della folla. Indietro fino alla piazza che si stava svuotando, indietro mentre i bambini in gruppo spensierati continuavano a giocare, senza ancora la risoluzione dei contorni, di un contrasto, senza ancora regolare nitidezza. Di sera hanno raccontato la giornata al parco davanti ai loro occhi, la cena nel frattempo si era raffreddata, e parlavano come da un vetro doppio che assalivano d'inverno un palazzo, arrampicandosi da uno stesso vetro. L'ultima notte, dormendo, erano sognato, né a ripensarci bene, né su una pagina che si sarebbe mostrata ancora meno bianca, senza alcuna traccia, perché il sogno è rimasto a guardare da dietro allo stesso vetro, attentamente. Qualche sera fa Trotsky, in persona, somigliante a una goccia d'acqua in persona, ha sognato Reed allo specchio in persona di quell'uomo in persona somigliante, e Reed ha sognato Trotsky alla stessa maniera, in persona, somigliante. E insieme a presenze non bene inquadrate, in persona, non bene identificate, in persona, lo scivolo a spirale, il ponte sospeso, l'esplorazione del boschetto soprastante, la serpentina Yoblò, l'erba sintetica del campetto, le linee di gesso come limiti del campo da intendersi rispetto allo sfondo, con l'aggiunta di fatti di cui la loro presenza, in persona, non si era accorta a venire durante la giornata al parco del castello. Di fronte al palazzo d'inverno un uomo assiste all'assalto in persona imminente e impedisce di intervenire in persona con la macchina da presa a un altro, lo specchio della sua goccia d'acqua somigliante, in persona dietro a delle sbarre, fino ad arretrare e diradarsi dalla folla, fino alla piazza dell'arretramento, che nel frattempo si è svuotata in persona, senza poterne ancora stabilire con certezza un ordine successivo e o uno precedente. Insieme a Banzé, in persona, al picnic, di fronte allo specchio del laghetto, dei cigni che starnazzano e sbattono le ali, la fine dell'amico americano, insieme, in persona, dissolvente e refuso, con la scena dell'angelo che li osserva in persona, alle miserie della Sigelsoil, in direzione dell'orologio universale, lato West Side Gallery. Il testo di bianco tipografico è scarno di elementi paratestuali. Le sezioni sono prive di titoli, i singoli testi non sono intitolati, le quattro sezioni si avvicendano come in un loop. Lo spazio del testo predominante è orizzontale. In questa orizzontalità agisce il dispositivo verbale, un dispositivo preverbale, da una parte un dispositivo che non è organizzato, dall'altra invece che rimane frammentato, troncato, residuo, su una matrice di corpo poetico che, ad esempio, è il sonetto, oppure di un corpo fantasma che riguarda metriche come quinari o settenari. Non è un macrotesto, nel senso di un libro di poesia, come dire, caratterizzato da dentici, da informazioni di ambienti e di soggetti che compiono delle azioni, ma segue il suo funzionamento. E qui l'idea di comporre versi assume un'altra logica, un'altra modalità. Il tempo del racconto qui non è quello di un soggetto che registra i dati delle esperienze nel momento in cui li vive, ma qui il tempo della composizione è un tempo post-produttivo, dove l'autore utilizza materiali preesistenti, materiali verbali, e li rimette insieme nella pagina seguendo altre logiche e, come dire, come se fosse un architetto, come se fosse un montatore di immagini. E quindi il discorso non riguarda una soggettività. Qui il soggetto è la lingua della poesia che viene, come dire, un po' delegittimata, e il montaggio e l'impaginazione sono, come dire, le tecniche che qui vengono utilizzate su materiali che non sono neanche materiali, diciamo, della tradizione poetica, ma sono materiali extra, oppure materiali del letterario che vengono ridotti. Il tempo qui è deformazione quindi delle forme chiuse e metriche, e quindi deformazione dello spazio, della superficie del piano dove le parole, come dire, si collocano, ma anche deformazione del tempo dal punto di vista proprio del conteggio delle sillabe. la risposta moriva e animaleschi a un tempo ci si perde e dal quale tutti gli altri animali è ricco, densissimo, non si riesce a uscire, quasi tautologica, e di questa tattica di morire e finire, importanti il primo, divorato dagli squali, in plume, irrazionale e nello stesso tempo ignoto, poi arriva. All'intima e del mondo è data la condotta e del conoscere è legge, la cui rappresentazione in tutto e per tutto avviene validamente col pungere, quale punto senza corpo, intuizione che finché due parti muoiono dà la chiave e le altre questa volta ritiene. Dieci anni dopo quello della fatidica porta, per esempio, un uccello adolescenza, sorta di ala di uccello, nomi della madre morta, nel suo viaggio dello battere sulla porta, forse è più esatto dire che il suo cinema, dietro, dall'apparenza immobile, demiurgo, dalla labile, se si va all'indietro, provare a morire. Il tema del tempo nella poesia di Luciano è un tema centrale. E farei notare subito una caratteristica che è quella di chi scrive, al di là di chi scriva poesia più sperimentale, di chi scriva lirica, e cioè quello dell'uso della lingua, del linguaggio, dei verbi. È un libro autoreverse pieno di azioni. Non capiamo bene i soggetti. Sono chi scrive è il soggetto, è il narratore, sono la stessa persona, non lo sappiamo, non è esplicito, però i verbi che ricorrono nella scrittura di Luciano sono verbi al participio passato, qualcosa è accaduto, qualcosa è tornato, c'è sempre un prima, c'è un dopo, più raramente c'è un adesso. È più raro trovare il momento in cui chi scrive sta scrivendo ora quello che accade. È veramente una deregistrazione di qualcosa che è stato inciso, archiviato, con un fruscio di fondo che a volte non permette allo stesso autore di riportare sulla carta bianca il verbo che dica l'azione di ciò che viene documentato più che scritto in queste pagine. E ho notato una frase di un autore francese che è una passione per entrambi, per tutti e due, che è Francis Ponge, il quale negli anni 40, quindi parliamo di moltissimo tempo fa, anche dal punto di vista culturale, provava a dire: sto scrivendo una poesia che parla di una lucertola, del sapore, ma io non scrivo una poesia sulla lucertola. Il poema è la lucertola, cioè la cosa si scrive. L'autore è un soggetto che già in quegli anni, Ponge forse non usava questa espressione, ma è un soggetto che oggi diremmo desoggettivizzato. È un soggetto che non è più un io, ma che lascia che le cose siano ciò che appare sul foglio di carta attraverso le parole. Ed è un'operazione che nella temporalità sempre decentrata di autoreverse è assolutamente un punto su cui Luciano ha lavorato per questo libro. Secondo capitolo, l'assunto. Il giorno dopo, con l'idea di una passeggiata, il marciapiede, lato mare fino al Belvedere, la vista delle immagini fino alla spianata, l'incastro sotto dei vicoli, l'orizzonte panoramico, le nuvole a forme riconoscibili, sotto il fresco dell'ombra l'orologio universale, prima e dopo l'East Side Gallery, i presupposti dell'occhio nudo e quelli del telescopio, il fresco sotto l'ombra degli alberi. Il giorno prima e quello dopo, con l'idea di una passeggiata, fumando una sigaretta, il tratto da casa fino alla spianata, le immagini che si erano intraviste da qualche settimana fino al belvedere a mescolarsi con l'incastro sotto dei vicoli, con l'orizzonte a fare la cornice, con le nuvole dalla forma riconoscibile, con i presupposti del telescopio e dell'occhio messo a nudo sotto i fusi dell'orologio universale, sotto il fresco dell'ombra degli alberi, con i presupposti per una migliore osservazione. Ad esempio, il giorno stesso, senza più alcun interrogativo circa la risoluzione del contrasto dei contorni, senza più alcun dubbio dei contorni circa la risoluzione del contrasto, con l'idea a monte di una passeggiata, di una sigaretta da fumare fino al belvedere, lungo il tratto il pensiero che diviene il non pensante, le sue richieste, il tratto fino in fondo all'accaduto, con le solite immagini dell'orizzonte, delle forme dell'ombra circa il contrasto dei contorni, del fresco non lontano rispetto all'orologio universale, non lontano dal telescopio e dall'occhio messo a nudo, dal cielo e dalle nuvole. Il giorno dopo è quello stesso avvenire senza più alcun interrogativo circa il contrasto dei contorni della risoluzione, senza più alcun dubbio circa la risoluzione del contrasto dei contorni. Con l'idea a monte di una passeggiata, l'idea di una sigaretta da fumare lungo il tratto fino al belvedere, il pensiero che discerne il non pensante, le sue richieste nel tratto fino in fondo all'accaduto, con le solite immagini della cornice panoramica ingrandita sullo sfondo, ora che le loro tracce sgranate l'avevano invasa, con il presupposto che il telescopio permette una migliore osservazione, meno trasparente e meno bianca rispetto all'occhio messo a nudo. A questo punto dell'accaduto il pensiero, pensante e non pensante, dopo tutti questi ripensamenti, fino in fondo a mostrare un profilo tratto del suo discernimento a starsene inerme, un disegno nell'inerzia del suo rumore che dialoga con il suo ronzio, nella natura morta di una cucina ordinata, nella cornice liberamente pensata all'inizio al posto della cucina che il non pensante pensava di riordinare, nell'idea non pensata a discernere, a una distanza non pensata dalla frutiera, distratto dal suo rumore, al congegno di sottofondo del frigo e dal ronzio con cui dialoga, a una distanza dal gatto che fa le fusa, al gatto che è in pausa e in penombra che dialoga e che ha un nome spento a discernere in pausa e in penombra il suo disegno al posto del gatto e del non pensante. Il pubblico si chiederà che cosa stanno scrivendo questi due. Io era 25 anni che non entravo in un teatro. Ha aspettato un po' di tempo. Sì. E allora dobbiamo un po' svelarci, perché queste scritture di ricerca che godono di ottima salute in Italia, tutta una serie di compagni di avventura che, insomma, come dire, che ci seguono e che noi seguiamo e che salutiamo. E quindi, insomma, dobbiamo un pochettino svelarci, perché se no prevale sempre un'idea di scrittura che non è quella che in qualche modo noi stiamo percorrendo. Non so se sei d'accordo. Sono d'accordo, perché cioè, ti avrei chiesto la stessa cosa, nel senso che poi te la chiederò. Hai parlato di fantasma prima, no? E effettivamente ci sono dei fantasmi qua dentro. Allora, già ci sono dei testi, poi se ci sarà il tempo sarà anche divertente, spero, provare un giochino che è un testo si può leggere rispettando il bianco tipografico impostato, oppure si può leggere perché ci sono delle rime anche qua dentro, più o meno criptiche, più o meno nascoste, che però ricorrono. Allora, non è tanto, tu hai parlato di sonetto, no? Non è che mi sono letto Petrarca e ho detto no dai, qui bisogna assolutamente spolverare, tornare un po' alle origini e andarci a riprendere dei testi classici. È proprio il sonetto, è il simbolo, è un po' come il tempio greco, cioè il tempio greco è il simbolo dell'architettura classica, il sonetto è il simbolo della letteratura italiana. Non ho nessuna velleità di entrare in quel novero di autori di quell'importanza, però è un fantasma che a me è servito per affrontare la pagina bianca, cioè in qualche modo ho voluto darmi un po' da architetto perlomeno di formazione una sostanziale, come dire, basamento, no? Due fondamenta da dire: voglio giocare dentro uno spazio recintato che ha la forma del sonetto. Dentro poi che cosa ci metto? Niente di mio. Cioè, come hai detto tu, tutto il lavoro che è qua dentro nasce da alcuni anni in cui non ho più scritto niente, ero veramente, ma bloccato, ero anche sereno, cioè poi... Nel senso che ho letto un sacco di roba che mi è piaciuta, mi sono innamorato di un sacco di scrittori e dicevo, beh, bravi. Poi è arrivato un giorno d'estate in cui in sostanza ho detto, ma c'è talmente tanta... Cioè, nel mondo siamo sommersi di parole e anche, come dicevi tu, di origine assolutamente non letteraria. Allora, mi sono dato un po' un progettino, un recinto che è il sonetto, 14 righe, due quartine, due terzine, e ci ho messo anche ABBA, ABBA, CDE e DC, proprio... e ha fatto esplodere tutto. E però ci ho messo i dizionari di elettronica, il testo di chimica, ho messo i cartelloni sul binario 11 di Principe, che è la mia seconda casa, potrei dire. E però adesso poi starà chi lo legge e vedere se funziona o non funziona. Però mi sono veramente divertito e ho ripreso a usare la penna, cioè ho ripreso a scrivere a computer con più o meno, diciamo, felicità dei lettori. Comunque, in ogni caso, ho scritto delle cose che altri avevano già scritto, quindi assolutamente post-prodotto, cioè è un gioco da sala di montaggio. Allora, quindi ora devo un po' spiegare come è nato Autoreverse. Sì. Beh, guarda, un pochettino mi riconosco nelle cose che dici, perché prima del 2020 scrivevo, insomma, ho pubblicato dei libri di poesia, diciamo, più tradizionalmente intesa, però non ero soddisfatto, perché mi sembrava, come dire, intanto di dovermi confrontare con un limite che era proprio al di sopra delle mie possibilità. E la questione del limite, del dire del limite rispetto alle forme metriche, sappiamo che nella tradizione italiana, come dire, ci possiamo sguazzare. E così ho cambiato prospettiva e ho detto, devo cercare di scrivere qualcosa che riguardi proprio la realtà, proprio quello che vedo, che poi non è detto che debba essere proprio io a vederlo. E così ho iniziato un po' a sperimentare con geni testuali, fondamentalmente, dove, come dire, il punto di vista non era quello di un soggetto, ma era proprio quello del congegno inventato per l'occasione. E così ho iniziato a prendere in mano di nuovo gli autori che leggevo all'università e che per una serie di motivi avevo un po' così lasciato lì, rimosso. E quindi ho ripreso in mano Sanguinetti, Corrado Costa soprattutto, Balestrini, e poi insomma conosci degli autori contemporanei e da lì inizi. E Autoreverse nasce perché appunto volevo uscire da quel tipo di scrittura, come dire, che riguarda la scrittura poetico, come se ne può vedere tanta anche negli scaffali, e volevo anche uscire da una certa sequenzialità narrativa, cioè volevo scrivere una cosa che non fosse né poesia né racconto. E così ho iniziato a raccogliere in un archivio delle frasi è stato proprio un lavoro quasi di scrivere delle linee frasali che piano piano, come dire, si associavano l'una dopo l'altra e sono nate delle scene. Quindi la prima sezione, che si intitola Landslides, che significa smottamento, è nata proprio così, dei quadri, delle scene che, come dire, scivolavano quasi uno dentro l'altro. E da lì poi contemporaneamente ho ripreso in mano un po' scritti teorici di letteratura, diciamo, di William Burroughs, e ho visto che William Burroughs, che è stato all'università, proprio era il mio autore, diciamo, e lui lavorava molto con il cut-up, con tantissime forme di cut-up, e soprattutto poteva attingere ad un archivio di voci di un amico che, appunto, come passatempo registrava tutte le voci possibili e immaginabili, quindi soldati al fronte, oppure persone che stavano morendo, oppure, che ne so, dialoghi di qualsiasi cosa. E Burroughs era entrato in contatto con questo archivio, quindi andava, registrava, ascoltava queste registrazioni, e quindi tanti dialoghi, anche i suoi romanzi, sono nati così. E ho ripreso questa idea e ho cercato di fare una cosa, dei capitoli che adesso magari sentirete. Cioè, ho immaginato che queste parole fossero incise su un lato e sull'altro lato di una cassetta, e quindi a un certo punto dallo smottamento si arriva proprio quasi, come dire, a una specie di testualità binaria, in cui c'è un lato 1, quello che accade sul lato 1 ovviamente non accade sul lato 2, si va avanti, indietro, e il libro procede in questo modo. Ottimo, dico solo una cosa per quello che hai letto e forse ho letto anch'io, per dare qualche elemento forse a chi dice ma insomma sta scrittura di ricerca, poi hai tutto questo materiale verbale, no? Lo devi organizzare, buttare sulla carta. In realtà cioè una strategia è anche quella di un po' della ripetizione, no? Cioè, diciamo, in termini tecnici è la figura dell'anafora. Che vuol dire? Anche tutto questo mio scendere da un treno, salire, scendere, scendi, e il cartello giallo e la striscia. Di che cosa parla? Intanto di una incapacità di definire, di mettere a fuoco anche la tua visione del mondo contemporaneo, che è fatto di 10.000 input. Dall'altra è anche l'occasione di dire, siccome è difficile descrivere il reale, cioè tenere le orecchie aperte 24 ore su 24 e registrare il registrabile, potremmo dire, devi in qualche modo, per definire una cosa, io la sento vicinissima, questa cosa che anch'io ho preso da autori come Tarkos, Glaise, la Francia, devo dire che in questo è proprio la... Sì, diciamo, è un po' l'origine anche della ricerca in questo senso. Però ripetere continuamente per definire qualcosa che non è definibile. Cioè, è un aiuto, è un'ancora, è un continuare ad andare a capo e ridire la stessa cosa, perché forse alla fine quella cosa lì appare, forse. E allora io in questo devo dire, voglio proprio dire tutta la mia impotenza nel buttare giù qualcosa che nel 2025 abbia un senso. Non voglio caricare il libro di senso, probabilmente non ce l'ha. È un lavoro di superficie, l'hai forse già accennato, no? È una macchina, un ingranaggio verbale che si muove in orizzontale. Sono assolutamente già contentissimo che funzionasse così. È un dispositivo. E il cut-up è la mia cassetta degli attrezzi che ho preso dai beni illustri precedenti. Volevo dire un'ultima cosa su questo fatto del ripetere. Forse è anche giusto dire qualcosa di biografico, cioè dietro di me ci sono degli studi di architettura fatti anni e anni fa, ma devo dire che anche un po' l'esperienza di danza che ho portato avanti per qualche anno mi ha veramente, uno dice come è possibile che ti abbia dato l'idea per scrivere, ma in realtà non sto danzando mentre scrivo, però in qualche modo quando penso ai laboratori di danza contemporanea in cui l'input era descrivimi il compagno di viaggio dell'autobus con cui sei venuto al laboratorio, e da quello partiva un'immagine coreografica montata in 2 ore di lavoro di sudore puro. Eh beh, io sono anche quella cosa lì, cioè io che scrivo non posso dimenticarmi qualcosa di fisico, di muscolare e di non pensato, cioè di non io Fabio Poggi, guarda che figata che sta scritta, no, assolutamente, sono uno che ha un registratore, un po' rubo la tua immagine, faccio rec play, mi muovo, sto in questo recinto e girano lì dentro delle parole. Un applauso. Non sono mica pensieri buttati lì. No, bene, è roba che gira in testa. Eh sì, no, forse pensiamo troppo, vero? No, però scriviamo anche, dai. Allora, terzo giro, sì. Perché abbiamo detto che cosa scriviamo più o meno. Allora, il terzo capitolo si intitola Accaduto il non pensante. Davanti alle immagini dimostranti del telegiornale, metafora, la ripresa dell'evento fino alle spinte al diradarsi di una folla. In ogni punto sgranata la lettura di qualche saggio sul pensiero di qualche pensatore francofortese sul meno, metafora. Insieme a presenze non ben inquadrate, a qualche verso dell'attuale trend poetico giusto dopo per riposare la mente, alle sue letture preferite per svuotarla, metafora. Indietro senza un precedente successivo alla loro portata per riprendersi le immagini asincrone, e fin quasi sfasate, a partire soprattutto dal pomeriggio al Parco del Castello, lato 1. Sorpreso insieme a presenze non ben identificate di quelle strane incomprensioni, straniamento quasi, per la nuvola prima reale e dopo irreale, lato 2 e lato 1. Di quei momenti asincroni e fin quasi sfocati adesso nel pensiero, con il rumore del dialogo andato a corto di giri e o in affanno, lato 1. Lato 2, pur con qualche variante a tenere la luce accesa della lampada o a isolarsi con l'ascolto di qualche vinile acquistato di recente. Metafora. Circa la vicendevolezza ai lirici nostrani che potessero almeno rasserenare con le loro voglie, senza gli umori in dialogo con la natura e i ronzii dispersi in oggetto alla loro instancabile ricerca monocroma. Metafora. In quel momento, lato 2, nemmeno a provocarla una qualche reazione scontrosa di pensiero, lato 1, senza ancora la certezza di poterne stabilire un ordine, entro le linee bianche di gesso. A bussare più volte per diletto alla sua porta, e o per prendersi in un gioco, metafora, fino alla piazza da arretrare, già pronto alla fissazione distesa del pensiero libero, lato 1, e alla fissità della luce della lampada, metafora, a chiudere gli occhi per l'oscurità della camera e le immagini a liberare il pensiero che aveva avuto a lungo un dialogo più simile a un rumore per un'intera giornata fino a una piazza che nel frattempo si era svuotata. Senza un movimento di vento precedente o di foglie successivo il vuoto attorno al fine di riempirlo di oggetti, per eluderlo quelli già presenti d'altronde, la scrivania alla sua sinistra, le cartelle dei bambini all'ingresso, i loro vestiti sul termoconvettore, la libreria ricolma di poeti in fuga dai paradigmi contemporanei dell'accaduto, entro le linee bianche di gesso appena tracciate, i libri rimossi e spolverati di recente di studiosi operanti a un grado senza licenza sui vari versanti della conoscenza, senza ancora stabilirne la certezza di un ordine precedente, successivo e nell'evoluzione di un discorso che aveva il proprio culmine nel rumore sottostante alla materia del pensiero. L'altra libreria, anch'essa colma di libri di piccolo formato, a riempire l'ultima parete di uno spazio da abitare sull'immagine, somigliante di altri interni simili, tratti dalle pagine di riviste specializzate in spazi ristretti e pensati. I portaci di a muro incolonnati di fronte e i tablet dei dormienti sotto carica. indietro fino a una piazza che si svuota e le fotografie raffiguranti fino in fondo scene lontane, appese, del non pensante in paesi solari e visitate insieme a presenze non bene inquadrate, insieme a presenze non bene identificate. In caso di fumo e di fiamme e fumo, chiamare e la natura senza creare fumo, si verificassero situazioni di capelli, di bocca, di naso, invasi, di appositi cartelli, non evitare, non correre di là seguendo le proprie, tenere indice e occhio non al di là, se solo stesse. Pronti? 10 per 3 più 4 per 2 più 5 per 6 più 12 meno 30 per 1,5 più 21 più 15 per 3 meno 100 meno 18 per 6 più 20 per 3,5 meno 7 più 5 per 6 per 3 più 11 per 8 più 4 meno 60 per 9 per 3 uguale meno 50 meno 70 per 23 più 48 diviso 2 per 6 per 4 diviso 8 più 103 più 13 per 5 meno 61 uguale. Sono somme che corrispondono veramente. Ci ho messo un mese a fare tornare il conto, ma perché ci sono le rime, quindi. E sono endecasillabi puri. Cioè 10 per 3 più 4 per 2 uguale e più è un endecasillabo proprio classico. Ma non perché, ma così volevo dire. Provate anche voi, perché no. Ne leggo ancora una, se la trovo. Allora. Una sorta di iceberg, dillo, non è mai riuscito, entità sempre più piccole di lo hanno fermato. Tengono che nel caso di 3, il secondo è stato trovato, tosto l'apertura di e si è presentato il terzo roman Zolla Capitale e altre tre regioni, ma nulla né le battute, il succo e poi vendute canza di indicazioni, io 21 marzo. Vedi che il nonsense fa ridere. Poi dico una cosa su questo. Sì. Beh, siamo arrivati all'ultimo capitolo che è Distanze. A proposito di distanze, cosa possiamo dire? Dico qualcosa io? Beh, l'avrete un po' così notato, Autoreverso è un libro di distanze, fondamentalmente. Tanti tipi di distanze. E distanze interne al testo, che il soggetto affronta, e distanze che sono al di fuori del testo. E c'è una distanza che io definisco metaforica, cioè non so se avete notato, spesso, come dire, le linee frasali erano interrotte dalla parola metafora, il tra parentesi. E questo è un po' un gioco con il lettore, nel senso così anche un po' provocatorio, di dire bene, se qua c'è una metafora, e vediamo un po' qual è, sì, ecco, trova la metafora. E quindi sì, la prima distanza è quella metaforica, poetica. E poi ci sono altre distanze. Altre distanze, c'è una distanza storica, perché è vero lato 1, lato 2, ma il libro è anche costruito tutto sulla controfattualità, cioè quello che non è accaduto fondamentalmente. Spesso in narrativa la controfattualità è una molla fondamentale per portare avanti la narrazione. Ecco, gestire la controfattualità non è semplice. Mi serviva appunto un dispositivo che mi dicesse quello è stato, quello è e quello che avrebbe potuto essere non è stato. Poi c'è una distanza storica che è, come dire, un po' presidiata da alcuni oggetti che si avvicinano un po' sulle scene. I due oggetti principali sono il telescopio di Castelletto e l'orologio universale di Alexander Platz, che poi è, insomma, il libro è dedicato a questo luogo, ad Alexander Platz. Tra l'altro l'orologio universale è un oggetto particolare, perché, come dire, ci sono, non so, una ventina di fusi, e quindi in contemporanea è, come dire, ricordo quando l'ho visto per la prima volta, è proprio un oggetto effettivamente, come dire, che vederlo nella ex Berlino Est era qualcosa, un po' un oggetto alieno, ecco. Ecco, questi oggetti in qualche modo presidiano, come dire, la prossimità di queste distanze, che sono appunto di diverso tipo, distanze che sono dei limiti, che si cancellano, distanze, come dire, osservate, distanze mai raggiunte. E la distanza mai raggiunta fondamentalmente è quella che riguarda poi l'asse della distanza ideologica. Cioè, come dire, fondamentalmente il libro parla del fallimento, diciamo, della nostra rivoluzione umana, cioè delle rivoluzioni che, come dire, sono andate incontro al fallimento e che in qualche modo sono state un'occasione mancata. E quindi questo soggetto così entra in questo giro di pensieri, di flamberi quasi, a cercare qualcosa che è impossibile. Però sai cosa? Che, cioè, io ho recuperato un attimo degli appunti, rileggendolo, anche come scelta di, appunto, dei verbi, no? Dicevo all'inizio, è pieno di participi presenti. Cioè il participio presente, pensante, somigliante, performante, dormiente, è veramente colloca chi potenzialmente potrebbe compiere questa azione, ma forse non l'ha mai compiuta, la compirà, l'avrebbe potuta compiere, o l'ha compiuta mentre non l'ho vista. È bello perché il soggetto è qualcuno che sta per attraversare la strada, c'è una pagina bella con le strisce viste da dopo che l'ha attraversata, prima che l'attraverso, ma forse non l'ha mai attraversato, cioè sul punto di, no? E appunto è quello che stavi forse dicendo prima. L'altra cosa sulla distanza, forse ti riguarda, per me la distanza è, cioè, mettere a distanza anche le parole e avere uno sguardo ironico, ma non è ironico, allora, tornando un po' all'uso di forme metriche che ho provato da cui ho provato a pescare, non è un uso ironico, figuriamoci se mi permetto di arrivare con un sonetto e dire guarda, adesso il sonetto si fa così, non, l'approccio è piuttosto di dire io come autore sono intanto prima di tutto un lettore, mentre faccio il cut-up leggo e monto delle cose che altri hanno scritto, è piuttosto un movimento autoironico, questo sicuramente, questo ha a che vedere un po' con anche il dire proviamo a scrivere, cioè non, è anche un tentativo di veramente di provare a scrivere qualcosa, e ribadisco, in un tempo come questo si potrebbe aprire un discorso anche politico diverso e di critica sociale, ha un peso. E dire io sono 24 ore al giorno che io sento me stesso e altri che dicono io da ovunque. La scrittura è un momento di pausa per questo, secondo me. e da salutare. Sì, infatti. Leggo un po' alcune cose che riguardano le distanze. Anzi, questo è veramente proprio sull'immobilità, questo testo. Il silenzio intatto di una mattina prossima alla neve, che si è scoperto per l'altro che si riconosce e che un po' gli somiglia. Il non pensante un po' intirizzito al buio. I suoi primi momenti alla memoria dei passi entro misure ristrette e ripensate fino alle spinte al diradarsi della folla, lato 1. La caffettiera sulla piastra. Un sopralluogo delle voci comparse dall'iPhone con un suono, metafora, insieme a presenze non bene identificate, un segno insperato ritratto da una memoria recente, metafora, senza uno precedente, un altro segno atteso invano per qualche secondo, altro silenzio intatto da una mattina prossima alla neve, senza uno successivo, a occhio nudo alcuni passaggi consueti della meccanica del risveglio, metafora, incurante di alcune formule di passaggio disattese, durante i passi del breve tragitto, metafora, localizzato su niente di rilevante al momento per non distrarsi fino in fondo, fino a una piazza vuota, una coscienza che prima o poi si sarebbe fatta viva. Al primo istante necessario piccoli riti influenti al pensiero di rianimazione diurna, le tracce inavvertite sul tavolo della cena della sera precedente quando la luce filtra dalla finestra, la luce del neon sotto la cappa che incrocia il raggio di luce filtrante, una prospettiva di straniante compattezza, una prospettiva di domestica immobilità. Le scale decine e decine di volte, ad esempio ogni vita che scorre ripetuta da ogni lato, due lati sopra e sotto la stessa direzione nell'opposizione dei contrari, uno con i presupposti dell'occhio messo al nudo rispetto alla migliore osservazione e l'altro nascosto che è la superficie, magari magnetica verso i due lati, metafora, magari no, di ciò che scorrendo gli accade imprimendosi, che si restringe e o si dilata. Ad esempio che vorrebbe aderire con più segno su un punto e su o sul lato scorrevole che gli volta la faccia dell'accaduto. A un certo punto inevitabile e irreversibile dal lato 1 al lato 2 nei termini dell'occhio messo a nudo e del telescopio rispetto all'orologio universale, giusto per una traccia più aderente o, viceversa, meno impressa per tornare indietro fino ai presupposti. Risalite le scale dall'altro lato che scorre per vedere se c'era ancora qualcosa di quel lato percorso al contrario per rincasare all'ora della cena. Le macchine strecciano con i fari da un lato della carreggiata e gli uomini inermi, come in pausa, che corrono o camminano spediti da un lato del marciapiede, con le macchine in sosta o parcheggiate, accese le quattro frecce adesso per vedere se c'era niente di impresso di quella discesa ai due lati della corsia. Come uno scorreva per rincasare all'ora della doccia, da un lato non lontano in una linea continua dall'occhio messo al nudo, e da un lato senza regolare nitidezza, dall'altro lato dello stesso oltre una linea tratteggiata, non lontano dal telescopio sotto il fresco dell'ombra, e dall'altro lato dalla corsia per una migliore osservazione dell'accaduto. Con il suggerimento di tenersi al corrimano senza darsi il braccio da un lato, senza tenersi dall'altro alla ringhiera, senza dimenticare nulla di quanto ripetuto, senza ancora una risoluzione del contrasto insieme ai presupposti rispetto al lato contrario, senza dimenticare che i gradini in alcuni tratti, tratteggiati, sono diseguali, se non dissestati, senza ancora una risoluzione scorrevole dei contorni da ambo i lati corrispondenti. Con il suggerimento senza dimenticare nulla di quanto ripetuto, il pensiero dell'altro lato che scorre allo stesso modo in una direzione suggeriva di dare la mano senza farsi sfuggire l'attimo contrario, senza farsi cogliere impreparato al verso dei suoi contorni. Non pensando a una successiva indicazione senza ancora la risoluzione di un lato del contrasto, allora ha trattenuto la mano della bambina rispetto all'altro, per una migliore osservazione della mano lasciando perdere il corrimano e la ringhiera dell'accaduto fino in fondo, imprimendosi in un lato e poi cercando nel pensiero scorrevole dell'altro di rassicurarsi. Siete ancora qui? Sì. Magari leggiamo ancora una cosa, poi... Sì. Chiaramente se ci fossero domande, se ci fossero... È stata un'esperienza straniante. È stata una cosa mistica. Oh. Ma... no, volevo solo dire che allora dice, vabbè, è un giochino, parlo per me chiaramente, è un giochino di... mi sembra anche giusto dire, ho proseguito poi a scrivere altre cose che non c'entrano anche proprio più niente con questo tipo di approccio, diciamo, però di base si sta un po', mi si sta formando un po' l'idea che, perché poi vado avanti a scrivere in sostanza, perché mentre pesco, no, quindi faccio uso di territori, vado in territori extra letterari assolutamente non riconosciuti dalla letteratura, facendo questo però, montando i pezzi, e questa è un po' la sorpresa che mi spinge ad andare avanti, si formano delle figure che non sono quello che ho in mente io, non è quello che è la sorgente da cui prendo, è una terza figura che si forma. Cioè, in una fotografia che è soprattutto sincronica, no? Che è bloccata, che cerca di fissare un flusso sfocato, eccetera, pixelato, quello che vogliamo, c'è una forma di narrazione diacronica che in qualche modo solo nello scorrere della lettura prende forma, in maniera un po' fantasmatica forse, ma mi incuriosisce, cioè viene fuori un giochino che forse è un po', passatemi il termine, una pippa un po' mia, e cioè che mi leggo come se fossi il lettore di ciò che ho scritto, e questa cosa per quanto mi riguarda mi è anche motivante. Vi leggo solo un'ultima cosa, poi insomma. Allora, lo pesco adesso qui. Leggiamo un ultimo testo. Sì. Allora, vi volevo leggere solo due testi che sono tratti dalla stessa origine, ma che hanno dato luogo a due testi abbastanza diversi. Da una parte avevamo Il fluire del tempo. Reingresso del tempo, neuroscienze. Pensiamo, dall'altra parte, avevamo Distorsioni del tempo e Minkowski, il tempo, dalla stanza in cui siamo, sfocata e spericolata. Movimento, risale un'allucinazione. Di recente vagliata, la rotta concettuale, la fuga, predazione. Ioni del tempo in cui siamo, esso del tempo parte, avevamo ire del tempo, scienze. Pensiamo, skill tempo, te avevamo, spericolata, a concettuale, a predazione, lucinazione, mento, risale, ente vagliata. È stato un po' un, le messe anche vicine nel libro, perché sono due testi nati da tecnicamente un sonetto fatto di settenari, che storicamente si chiamava, se non sbaglio, sonetto minore, e fatto invece da quinari, quindi cinque sillabe, che sono i sonetti minimi. Parliamo del 1500-1600. Il testo però è un testo super scientifico, e ho voluto solo vedere se anche solo spostandosi di un millimetro come approccio alla scrittura, effettivamente poi la testualità può cambiare. Beh, concludo con questo testo che è un po' riassuntivo, perché qui i nastri vanno avanti e indietro. E infatti questo ultimo testo che conclude il libro e si intitola Rev FFVD. Dopo giorni con l'idea a monte di una passeggiata per i giorni a venire da un lato e dall'altro in un doppio senso e ritorno verso per gli anni indietro e in avanti su uno sfondo del campo appena tracciato di gesso, con l'idea di una sigaretta da fumare lungo il tragitto dell'idea che era apparsa da tempo e che prevede una sigaretta, metafora, il cammino fino al belvedere, lato 1, con lo sguardo attento a ogni punto, immerso distante dai punti panoramici o dissolventi o sovrapposti o sfocati, metafore, rispetto alle solite forme con l'idea margine più attenta ai punti di un'immagine che si sgrana come un'esplosione o si rigidisce fino a farsi ghiaccio in superficie, fino a farsi scheletro in ogni punto, metafora, pausa con l'idea di cognizione maggiore dei particolari dei punti in superficie e su uno sfondo illimitato senza regolare nitidezza, senza la risoluzione dei contorni di un contrasto, dell'attenzione a non sfuggirvi a lungo o irreparabilmente, metafora, con l'idea dello studio a monte di idee fissate da punti, con il discernimento dubbioso che i punti delle immagini non siano sempre punti e che le immagini che li raccolgono e li uniscono in una forma non siano sempre immagini, con l'idea fissa che continua a circolare insieme all'orizzonte, al cielo e alle nuvole riconoscibili e irriconoscibili, all'incastro dei vicoli sotto il fresco dell'ombra sotto gli alberi, all'orologio non lontano fino ai presupposti del telescopio e dell'occhio nudo per una migliore osservazione. E lì si rasenta il muro dell'East Side Gallery, metafora, insieme alle immagini che ne provano la vista di ogni punto per trasferirsi in quello stesso luogo, indietro con l'idea che si trascorrono le immagini in un luogo di quella stessa cornice che ha pensiero a un tempo dell'accaduto in cui si trovano, i loro punti sgranati fino in fondo in vasori trasparenti, lato 1, lato 2, in avanti, il loro controllo pensante e il loro non pensante in contrasto nella risoluzione dei contorni, lato 1, il loro pensiero bianco e lineare dei contorni, lato 2, e il loro non pensante nei contorni della risoluzione in un contrasto. Doveva essere l'effetto metateatrale, dovevamo sparire a un certo punto. Cioè, doveva apparire una botola e sì, noi dovevamo dire. Sì. Non è partita la botola. No. Però non è accaduto. Grazie. Grazie a tutti. Qualche impressione anche, non devono essere sempre le domande. Sì. E, ma siccome. Forse dice. Certo, perfetto. Allora, questo divertito. È il primo praticamente. Perché? Perché? Allora, la Sara Lunga, c'entra anche Marina che è qui davanti. Beh, la conoscenza con Luciano risale ai tempi dell'Aberio, se non sbaglio. Io stavo scrivendo il dottorato 2002-2003 e ci si vedeva ai caffè lì nel baretto e parla, riparla, insomma, tante letture in comune. Poi ci siamo sempre incrociati, appunto, anche Marina. Lui curava una rassegna che si chiamava Scorsale Mare, qui a Genova, in cui c'erano ospiti tra letteratura, un po' più teatrali. Noi abbiamo fatto un intervento con Marina in una libreria che non esiste più, il Falso Demetrio, allestendo dalla poesia della Szymborska, che era poetessa polacca, premio Nobel, abbiamo ricreato un po' una scena nostra, bello, ironica. Insomma, è un incrocio di anche di, diciamo, esperienze diverse. Io al tempo non scrivevo, comunque poi ci siamo rivisti, mandami qualcosa se hai scritto, ho mandato qualcosa perché avevo scritto. E, e da lì però devo dire una cosa serissima, grazie della domanda, che poi a un certo punto Luciano mi ha detto seriamente, mandami veramente qualcosa che hai scritto, l'ha letto, lui è il direttore di questa collana in cui ho pubblicato il mio primo libro di questo tipo di scrittura che si chiama l'Arcolaio. La collana è il laboratorio, proprio perché l'idea credo che nascesse anche da questo aspetto più laboratoriale, sperimentale della letteratura, e è stato molto veloce. Ci siamo riconosciuti subito in una specie di incrocio di percorsi anche, no? Quindi il libro poi è andato anche molto velocemente. Sì, sì, sì, curo o curato, non so ancora effettivamente se la cosa andrà avanti, però diciamo che sì, il prodotto di questa curatela appunto sono 4 libri, e, oltre a quello di Fabio Poggi c'è il libro di Massimo Palazzi che era qui però che è andato via, e poi c'è il libro di Francesco De Otto e il libro di Giuseppe Caracausi. E sono tutte scritture, sì, che io definisco di ricerca, un po' per appunto la ricerca dei linguaggi, un po' per la radicalità. E questo libro di Fabio, sì, subito, immediatamente, perché non avevo mai visto delle forme poetiche così, così radicali, ma allo stesso tempo anche familiari. Perché comunque qui, va detto, tra i credits, insomma, comunque sia, io ci vedevo delle cose di Balestrini. E che è un autore di riferimento, e quindi non capisco la domanda perché sembrano due operazioni molto diverse, e in effetti forse lo sono, però accomunate da una stessa, come dire, operatività, diciamo. E, ad esempio lui usa il cattato, anche io uso il cattato, e lui è più orientato sulla poesia, e io diciamo forse più sulla prosa, anche se poi autore verso, nella fattispecie, è un libro che gravita intorno alla poesia, in realtà. E, quindi, insomma, diciamo che ci interessano le scritture non comuni, non consuete, senza voler fare nuove cose, però sono quelle che leggi e dici bene, ok. Per me, per noi, penso di poter parlare, la scrittura deve essere qualcosa che induce ad un impegno da parte del lettore, perché a me non piace il lettore disimpegnato, il lettore che legge così ogni tanto. No, mi piace il lettore che si deve confrontare con un testo, e quindi diciamo che gli diamo un po' di pane per i suoi denti. Io non ho nessuna domanda, ma volevo dirvi delle cose che sono trascritte, le dico così, nella forma dell'elenco che ci piace tanto. Io ho visto molto nelle vostre parole, ho visto Spianata, Inside, Binario 11. Mi ha ricordato Foto dal finestrino di Sozzas, quindi queste immagini che arrivano. Ho sentito ritmo, suono, pause, silenzio, pacchetti, castelli, bambini, orologi. L'orologio di Alexanderplatz mi ha ricordato The Clock, l'opera che era stata alla Biennale, dove tu guardavi, mentre guardavi era il tempo esattamente in cui c'eri. E per quanto riguarda la danza, è vero, l'origine è quella, perché è il ritmo, è la pausa, è il silenzio, il guardare, e poi concludo con un'immagine della prima volta che ho conosciuto Fabio, quando la consegna era danzate, quello che vivete, lui aveva messo un Walkman e stava nella danza senza fare, ma tu vedevi il movimento senza che venisse fatto, e c'è una tradizione, perché chi conosce, c'è Jérôme Bell che dice: ora sto per fare un passé, e non lo fa. Sì, invece io ho una domanda piccola, che è: qual è il vostro tempo della poesia? Cioè, come fate, e dove, quando, come, in questo tempo è tutto veloce, richiedente, pieno, a aprire il tempo della poesia? Beh, vado. Facciamo il coro. Questa è una domanda. Sì, io devo dire, ho imparato, non so se è un bene o un male, ad essere molto veloce quando scrivo. Quindi diciamo che quando ho in mente un progetto inizio a lavorarci. Di solito, quindi, un po' è tutto dilatato nel tempo. E un po', però, per quando inizio a scrivere, in realtà vado molto velocemente. E quindi mi ritrovo del materiale che lascio lì di solito e poi continuo sempre a lavorare sull'idea di come posso costruirlo, e di come posso assemblarlo, diciamo. E quindi, sì, un po' questo. Non so se hai risposto. Mi chiedevi più su come lavoro io, però il tempo della poesia. Non lo so, io penso un po' controcorrente da questo punto di vista. Penso che per scrivere in realtà il tempo bisogna proprio andarselo a prendere da qualche parte. Il tempo non c'è, almeno io non ce l'ho tanto per la vita che conduco. E allora è come se me lo andassi un po' a prendere, a ritagliare, a ricavare. E quindi poi è più... come dire, no? Quando poi una cosa è conquistata e più anche la senti di più, ecco, diciamo. E poi ci deve essere l'elemento del gioco. Per me la scrittura è anche gioco. Non sembra, perché insomma qualche clima un po' depressoide, cioè, però comunque per me la scrittura deve essere gioco. Io comunque scrivendo questo libro e anche altri, ma questo in particolare perché è stato il primo, mi sono proprio divertito in certi momenti. Mi sono divertito e quindi quando c'è quella dimensione lì poi il tempo è anche un po' relativo, diciamo. Ma appunto anche giustamente il tempo vola, abbiamo giornate di tutti pienissime, tecnicamente io incido un sacco di cose sulla allora registratore di questo abbiamo registrato, sì. No. Registro su quello, poi lo risento un po', se no negli appunti del telefono, cioè veramente autobus, ora buca, scuola, che ne so, cioè ti viene in mente una cosa e dici ma stasera poi tanto stasera comunque sì. Ti dimentichi sì, completamente tutto. Sì, registratori vocali li ho utilizzati anche io, effettivamente. Tu ci hai fatto anche un libro, no? Sì, questo, sì, sì. Quindi con registratorino. E, non so, la cosa della danza però mi ritorna ancora perché, cioè, questo fatto del, no, ti ricordi anche Nicoletta diceva ripetere per non ripetere, no? È quella roba lì, cioè, è fondamentale, no? È una scuola di scrittura anche quella lì. Ci sono poi teorici della letteratura che parlano di weiterschreiben, cioè non fermarti di scrivere, è sempre un weiter, ancora. È veramente anche una pratica fisica, cioè lo è, sì. lo è, perché siamo totalmente, credo di dire la stessa cosa che diresti anche tu, dall'altra parte del pianeta in cui il poeta aspetta l'illuminazione, l'intuizione geniale, mentre il gabbiano vola sul tramonto, cioè tutta questa cosa ha avuto una sua epoca, è stata storicizzata, ci sono dei testi fantastici. Secondo me è anche giusto da parte nostra, nel bene e nel male, piaccia o non piaccia, parlare con un linguaggio che è veramente, si dice, no, contemporaneo. Cosa vuol dire? Che siamo qui, cioè che ci stiamo muovendo adesso, con le caratteristiche positive o negative della vita contemporanea che conosciamo tutti. Sì, c'è l'aspetto poi sul linguaggio, chiaramente, almeno. Per esempio, dire il nostro è un lavoro sul linguaggio, almeno io. Il mio è un lavoro sul testo e sul linguaggio. Sul linguaggio, totalmente. Cioè, per esempio, anche leggere i romanzi, no? Ho 10 romanzi iniziato a metà, ma perché allora proprio sono detto, ma sei veramente... Cioè, continui a comprare romanzi che sono impilati, c'è anche una parola in giapponese che dice questa cosa. Però mi interessa solo veramente la lingua, alla fine. Cioè, se leggo Bernard lo finisco, perché... Però... Anche aprire un libro di Thomas Bernhard o Proust, che ho messo in esergo, che uno dice, ma cosa c'entra Proust? C'entra, perché è un autore che già aveva delle visioni pre-cinematografiche, pre-automobile, non so, aveva un guizzo di modernità dentro che io assolutamente, ma non mi interessa la trama di 8 volumi della Recherche, che però sto leggendo piano piano. Però quello che mi interessa è veramente la magia di un saper usare la lingua, cioè assolutamente ho una fascinazione totale per questo. Testo e lingua. E l'altra cosa dell'ironia, volevo finire perché poi sembra che uno dice ah, prendi un po' di questo, un po' di quello, ci fai due risate. In realtà non è un movimento di, non è un movimento parodistico, cioè non è una presa in giro di un passato rispettabilissimo che io, come dire, io Petrarca ogni tanto lo leggo veramente, cioè i testi classici del Novecento li leggo, non sono qui a dire che dobbiamo assolutamente voltare pagina, però se ti metti a scrivere oggi 12 dicembre 2025 devi secondo me porti anche, come dire, una domanda su che ruolo hai tu oggi, cioè certo, non ti chiami Ungaretti, c'è stato, è stato bravissimo, ma non sei più lui, quindi ironia ma non parodia, cioè come dire, sono veramente due cose diverse. Allora, innanzitutto anch'io vi ringrazio tanto, è stata una vera e propria esperienza. Io ho avuto l'impressione che danzassero le parole ma si fermassero quasi in una nebbia sospese, e credo che per scrivere così abbiate introiettato tanti modelli, ci sia tanta grammatica della lingua, non ovviamente la grammatica della Tosca, e mi sono sentita molto libera e credo che ogni volta i vostri testi si reinventino in base alla dimensione del contesto in cui si leggono e anche proprio rispetto a un testo classico, che le parole hanno una sequenza, c'è una trama, cioè, in questo caso secondo me si reinventano proprio nell'incontro tra il lettore e il fruitore e ogni volta cambiano anche per, credo, per l'autore stesso, e credo che questo sia un processo all'infinito. E ho avuto veramente l'idea di, no, non posso che leggere come una danza quest'uso delle parole, ed è stata un'esperienza perché non avevo mai conosciuto testi arabi, quindi vi ringrazio. Grazie. A sto punto, botola. Deus ex machina. Grazie. Allora, io voglio ringraziare Brava. Grazie. Grazie. Grazie.